passare al bar prima di tornare a casa, a parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Allora, devi sapere, Parenzo, che dopo aver annunciato ieri il suo licenziamento, immagino di chi stia parlando, Mediaset, oggi è una giornata, come si dice in termine giornalistico, orrendo, surreale, perché il signor Fede, il nostro amico Fede, dov'è? È barricato nel suo ufficio e non fa entrare nessuno, soprattutto si è messo un cerotto in bocca con un cartello. La scena ghiacciante. Ti giuro, così, si è messo un cerotto in bocca e poi un cartello, non posso parlare. Chi se ne frega? Sì, non posso parlare, prima però... Ma deve andare via, non è che deve parlare. Ma perché deve andare via? Ma non lo so, così perché ha detto, 80 anni. Così, perché, ha detto che mi frega a me. Allora, sentiamo però l'ultima intervista prima del bavaglio e prima del cartello non posso parlare, concessa a Sky, dove a un certo punto butta giù il telefono perché gli fanno una domanda su Confalonieri. E si barrica. Sentiamo. Ha qualche sospetto? No, non cominciamo, guarda, queste sono le cazzate. Volete fare troppi furbi, arrivederci. No, invece io volevo sapere. Direttore. E poi silenzio e cartello, non posso parlare. Salvate il soldato Emilio. Io faccio il tifo, in questo momento faccio un po' il tifo per Fede, devo dire la verità. Scaricato così a 80 sì, anni. Non si fa. Largo ai giovani. No. No, poi forse giovane Berlusconi. Guzzanti, Fede cacciato, stappiamo lo champagne. Sentiamo Sabrina Guzzanti. Siamo in diretta e le agenzie hanno battuto due notizie. La prima è che Emilio Fede avrebbe lasciato Mediaset. Ah. La seconda è una dichiarazione di Valeria Marini. Poi il delirio della Guzzanti ieri sera, di Sabina Guzzanti. L'Italia è stata distrutta come nel dopoguerra, è distrutta colpa della televisione. Poi tu vedi l'Italia distrutta. No, come poi nel la dopoguerra. Signora Guzzanti lavora in televisione. Siamo nel dopoguerra, però, secondo ma te. Ma anche lei lavora in televisione. Colpa della televisione. Il delirio della Guzzanti. Poi ci sono altre cose sulla Guzzanti. Delirio, delirio totale. Lei è sempre tranchant, però. Se la televisione in questi anni non fosse stata controllata, se la televisione in questi anni fosse stata democratica, non ci troveremmo in un paese distrutto, non ci troveremmo fra le macerie in tutti i sensi. L'Italia di oggi è molto simile all'Italia del dopoguerra, è un paese distrutto, è un paese che ha perso qualsiasi credibilità internazionale proprio come nel dopoguerra. Poi addirittura dice che Napolitano ha amnistiato Berlusconi come nel fascismo, poi se la piglia con Maria De Filippi chiamandola nemico dell'umanità. Ma siamo qui a Verona davanti a un meraviglioso pubblico. Buonasera, grazie di essere qui. Ciao Verona, come dice Madonna, lo dica Cruciani, ciao Verona. No, non lo dico, invece mando la sigla del nostro amico Vendola, no. Le frasi incomprensibili di Vendola, poi vediamo un ospite. Che ha detto stavolta? Adesso te lo faccio sentire. Sigla. La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo. Allora, Vendola, secondo lui questa legge elettorale che è stata proposta, non ne parlo nemmeno perché è incomprensibile, scolpisce l'imperituro potere dei Gattopardi. Cioè, ha già deciso che scolpisce l'imperituro potere dei Gattopardi. Beh, questo è facile da capire. Dici? Sì, abbastanza. Andare a elezioni senza indicare qual è il programma e qual è la coalizione che si candida a governare il paese è davvero scolpire l'imperituro potere dei Gattopardi. I Gattopardi. Va bene, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Alcuni politici non sanno che cosa sono gli esodati, abbastanza comprensibile perché effettivamente è un termine, non capisco di questa coloro volta... Coloro che sono fuoriusciti dal mercato del lavoro, signor Cruciani, e sì, che ora se la sono vista in... Tu lo sapevi prima, di la verità, lo sapevi o no? Nemmeno io, lei lo sapeva? Wikipedia, esodati... No, non lo sapeva neanche nemmeno lei. Nemmeno lui lo sapeva. Lo ma sapevo, non è che... però è un termine ma lei è esodato poco... da una serie di partiti, ad esempio, cioè io... è fuoriuscito da una serie di partiti. Credo che... È esodato dal PD, lo dico. Massimo Caleano deputato, bene, bene. Buonasera. Imprenditore, applauso deputato. Di regime per cortesia, di più prestato ancora per poco alla politica. Cioè lei dopo queste, dopo alla fine di questa legislatura se ne torna a casa? Certo, ho già cominciato. Come ha già cominciato? Sì, non va più a Roma? Alla fine dell'anno sono andato 3 volte a Roma. Ma non è una cosa bella da dire? No, è una cosa giusta, anche perché credo che sia andare a Roma, più, lei? Credo che sia, no, non è vero, c'è una nuova legge che fa sì che se uno non va a Roma non prendi i soldi di prima, quindi mi sento libero. In secondo luogo, facendo l'imprenditore, avendo 600 famiglie da mantenere, credo che in questo momento di profonda crisi, invece di andare a premere un pulsante, sì, diversamente non si fa, visto che c'è un governo tecnico, c'è un governo secondo me abbastanza balneare, nel senso che è un governo mari o monti, no, quindi, che sono soddisfattissimo che ci sia, da cittadino, sì, e spero che faccia molto bene. Sì. Però lei non ci vada. Perché no, ci vado ogni tanto, ma non serve il mio voto. No, però scusi un attimo, lei ha toccato un punto molto sensibile. Certo. Lei dice che dall'inizio dell'anno è andato numero volte? Tre volte. Sì. Bellissimo. Dunque sono passati quasi 3 mesi. Sì. In 3 mesi è andato 3 volte in Parlamento. Mese, ma non si vergogna un assolutamente tantinello? No. Allora faccio una premessa. Sì. Non sono andato fino alla settimana scorsa perché avevo dei serissimi problemi in famiglia. Ah, vabbè, questo, okay, quindi, su quello alziamo le mani. E quindi mettiamo. Però, ci è andato, però è andato. Io tre credo volte. Che torniamo al governo tecnico Monti. Mi auguro, aspetta, che faccia le riserve. Sì, prego. Su Monti ci andiamo. Bene. Però essere andati 3 volte, sì, questo significa che lei continuerà a non andare anche adesso? Cioè, ci andrò molto poco, sì, molto forse poco, anche più, ah, forse andrò, me ne torno definitivamente a casa. E perché non si dimette? Non mi dimetto per una questione squisitamente politica, cioè, perché ragione. Se mi dimetto io, la persona che va a Roma, chi è? Non faccio pubblicità, no, ma gratuita, pubblicità. Vabbè, è, no, un signore, è un signore del PD, sì, che è sicuramente in antitesi con l'idea di Veltroni che avevo io, ma con un'idea molto più filo Castro, per carità. Filo Castro, no! Molto, molto di sinistra, quindi non ma mi sembra è? Non corretto. Chi è? Ci dica il nome. No, andate a vedervelo, non ci faccio dica pubblicità. Ci dica il nome di questo Ascaro Rosso che lo andiamo a prendere a casa. Allora, torniamo un attimo al governo Monti. Aspetti, no, ma lei dice delle cose fondamentali e poi torniamo al governo. No, io voglio sapere chi è questo che è Fidel Castro del PD, voglio sapere. È uno che certamente non la pensa come me, adesso non guardo, ha un'idea. Adesso guarda, guarda il primo di non eletto. Allora, scusi, Galeano, scusi un attimo. Dunque, se lei si dimette, entra un comunista. Questa no, è una persona che non la pensa come me. Cioè, certamente. Lei ha detto un comunista, addirittura uno di quelli un allora, po' castristi. Scusa, insomma, un attimo, facciamo una premessa. Sì. Io vado nel PD con Veltroni che ha un'idea all'Obama. E se ne va perché arriva Bersani che arriviamo ad oggi. Che vuole fare il vecchio PC. Arriva Bersani che invece di andare questo da Obama va da Castro, ok? Non c'è mai andato da Castro. Non è mai andato da Castro, il Papa va da Castro. Non... Sì, però il Papa ha un suo partito che è uno buonissimo, molto forte nel mondo, di cui io ne faccio parte, sono un convinto. Scusi, ma ci può andare il Papa? Ci può andare il Papa da Castro, non ci può andare Bersani, se mai ci dovesse andarci. Però, prima, quando ci dice cosa votiamo e fa un programma, durante la strada, se cambia idea, dovrebbe permetterci anche a noi d'accordo, che siamo cittadini di pensare d'accordo con la nostra testa. Ma infatti io non metto in discussione la sua decisione di andare via dal Partito Democratico. Io dico solo una cosa: lei ha deciso da questo momento in poi, alla fine della legislatura, manca ancora un anno, Andrò. Se è necessario. Faccio parte di un gruppo, sì, ho parlato con il mio capogruppo. Gruppo, è un gruppo, no, si chiama PT Popolo e Territorio. Popolo e Territorio. Lei è ancora PT. No, come Poste e Telecomunicazioni. Bravissimo, sì. Lavorando nel settore delle telecomunicazioni mi va bene Poste e Telecomunicazioni. Senta un po' come lo produce. Come lo il palestinese quello Bubble e Territorio. No, io potrei dire Peter, PT. Ma perché? Va bene. Ah, perché lei è PT. Anglofilo. È un nome terrificante, PT. Ragazzi miei, non l'ho scelto io. Però anche che credo tanti altri che sono in Parlamento non sono tanto bellissimi da pronunciare, no? Siamo qui a Verona, un aggiornamento dalla mitica sede della Porsche, si pronuncia così, Parenzo? Sì, lo so. Lo sai, ormai ti ho istruito. Io anche non ho se siamo, la patente. Cioè, noi siamo, tra l'altro, dei pesci fuor d'acqua qui, perché in realtà tu non hai la patente, sì. Io non sono mi in buona compagnia, anche il signor Pannella non ha la patente. A me non piace guidare le macchine, per cui siamo a posto. Comunque. Perché dobbiamo dire? Io sono venuto con la Porsche. Lei è venuto con la Porsche? Ah, veramente? Veramente? Ma lei è molto ricco, no? Perché sei ricco? Ma è molto ricco. Insomma, sì. Non è mica io, ma a me piace la ricchezza. È molto. Ma quanto vale? Quanto vale sul Calearo? Facciamo un'asta, forse c'è per guadagnare di più, no? C'è la sua azienda. L'ultima dichiarazione dei redditi presentata in Parlamento, quanto è? Caleano. La mia è l'ultima, 280.000 euro. Vabbè, no. Quello è il guadagno così, no, patrimonio, poi, patrimonio. È un'altra cosa quella, no? Il patrimonio è l'azienda, è mia il giorno che l'ho venduta. Si dovrebbe svelare il patrimonio anche. Sì, no, allora. Ma quanto vale il patrimonio di Caleano? Non ne ho la più pallida idea. Non ho mai avuto paura dei rapimenti? Per rapire le cose, per fare poi il mio lavoro, guarda, non lavorare, tranquillo. Scusi un attimo, intanto c'è un aggiornamento. Fede ha firmato le dimissioni. Sì. Oggi ho firmato le dimissioni, ora si riparerà di quei nuovi programmi e del mio ruolo nell'azienda di cui si discute da tempo. Sono stato testardo, l'azienda aveva ragione, ma ora ci siamo capiti. Posso fare una domanda? No, domanda. Allora, domanda. Sì, adesso al governo. Ah. La facciamo in diretta. Aspetta. Allora, arrivo. Domanda al governo. Allora, il governo ha fatto una proposta che i farmacisti vadano in pensione a 65 anni. L'avete letto? Sì, i farmacisti. Sì, cioè, allora, perché vuole parlare? Facciamo in modo che tutti vadano in pensione a 65 anni, i politici, 70, i, no? Politici, i giornalisti. Vabbè, ma quello ogni no, è ora che c'è gente che è lì da 40 anni in Parlamento, non ha mai lavorato in vita sua, c'è gente che ha 70, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i mezzi hanno tutti sopra i 65 anni. In Parlamento facciamo lavorare andarci, i giovani. Se no uno si dimette il giorno dopo, non perché io ci sono andato 4 anni, no. Posso anche ritornarci, ma devono esserci delle cose serie che serva a fare qualcosa, non a premere un pulsante, se no ci va un altro che non ha niente da fare. Però, signor Calearo, quando lei dice non mi dimetto perché sennò subentra un altro che è Filo Castro, cioè la gente non lo capisce, non capisce niente. Uno allora, subentra, voi non sapete, voglio. Voi sapete che uno viene eletto per se stesso, non per il partito che c'è. Cioè, lei che ci fa con lo stipendio da parlamentare? Che ci fa con lo stipendio da parlamentare? Con quella allora, de Porsche, con lo stipendio di parlamentare, con lo stipendio di parlamentare, pago il mutuo della casa che ho comperato. E quant'è sto mutuo? 10.000 euro al mese? 12. Ma veramente? C'è una bella casa. E dunque per questo lei resta fino a 2020. No, assolutamente. Assolutamente. Però è bella questa cosa. C'è lei un mutuo a 12.000 euro al mese che paga con lo stipendio da parlamentare, sì. 15.000. Sì. Quindi lo paghiamo noi. E come fa dopo 2013? Lo paga lo stipendio. E dopo lo paga la mia azienda. Che cazzo, le sto pagando il mutuo! Stiamo pagando il mutuo a Calearo! Evviva! Vi invito a cena però, allora, va bene. Solo una cena! Siamo contentissimi, abbiamo appreso una cosa fondamentale che farà incazzare come una bestia un sacco di gente. Possiamo abbracciarla per queste sue dichiarazioni? No, sono sudato. Sono sudato. Perché non è da tutti, devo dire, metterci la faccia. Non è da tutti. Non ho niente da nascondere. No, è meraviglioso. Qualcuno potrebbe dire che uno c'ha la faccia comunque. No, però, vabbè, non si può più, siamo in nuova era. Ve l'avete già, ve lo dicono regolarmente in televisione e lei si incazza regolarmente. Cercate di essere educati, non è questione di... No, infatti, l'ho detto, è una nuova era questa della zanzara da oggi. Non ci saranno più parolacce, ci sarà intanto. Oibò, ma per dinni rindina... Per bacco, Calearo! Però sarebbe una bella educazione per quelli che vi ascoltano, che magari imparano facciamo anche loro. Facciamo un annuncio per chi vuole capire, capisca. Sì. Da oggi in poi si fa per dinni rindina o per bacco. Altresì? Bellissimo, lei è screanzato, no? cioè non è che mando bellissimo. A fare a quel paese. Esatto, bravo. Anche per i ragazzi che ci ascoltano. Lei ha un'azienda di 300 dipendenti circa, no? Un po' di più. Quanti ce n'ha? Un po' di più. Quanti? Non è un mistero. Oltre 700. Oltre 700, me l'ho sbagliato. Quindi la responsabilità di 700 avete, il problema vostro è che non voi ci formiamo, avete, no, avete le informazioni sbagliate. Sì, sì, ma sempre così. Dell'articolo 18, lei gliene frega o no? Dica la verità. Per quanto riguarda la mia impresa, no. Però dica alla zanzara, non me ne può fregare se... No, no, ma io sono d'accordissimo che lo eliminino, perché è una stupidaggine, primo per chi deve investire all'estero dall'Italia, perché è un freno. Poi tenete conto che il 90% delle imprese italiane è sotto i 10 dipendenti, ci sarà un motivo, no? È un freno a questo. Ma non è il vero problema per risolvere i problemi dell'impresa e del paese. Bisogna abbattere i sindacati. Non bisogna, no, assolutamente. L'articolo 18 è un modo per far sì che anche i sindacati si rendano conto che si devono modernizzare, come la Confindustria, come la politica. Serve più noi viviamo in una relazione diversa. Cioè, il problema principale è che oggi le imprese non sono più fatte di mano d'opera, sono fatte di mente d'opera. Vabbè, adesso lei è troppo complicato. No, ragazzi miei, il nostro paese non è più fatta solo di tute blu, sempre meno. Ma questo l'abbiamo capito. E deve essere fatta di gente che lavora con la testa, quindi il rapporto non è più tra il padrone e il sindacato, c'è un rapporto di sistema. Scusi un attimo, ma lei quando lavorava per Berlusconi come consigliere per l'export, quanto è durata quella cosa? Come meno di Papa Luciani? Un po' di più sicuramente, è da maggio a dicembre. Maggio? Ho offeso qualcuno con questa cosa di Papa Luciani? No, perché? Ormai ho paura di dire qualsiasi cosa. Bravo. Basta accendere, pensare, poi parlare. No, ma io non penso. È un problema di switch off. È durato 3-4 mesi questa cosa. Inutile totalmente. Quali risultati ha portato? Non credo proprio. C'è stata una cosa fondamentale. Non si è notato la svolta nell'export italiano. Ma vedete, è un'altra vostra mancanza di informazione. Allora, c'è stato fatto ad ottobre il convegno, un enorme lavoro, non del sottoscritto, però una parte l'ho fatta anch'io, sugli stati generali del commercio estero. Gli stati generali che anche l'attuale governo e il ministro Passera stia interessandosi, certo che sì, stia interessandosi a degli imprenditori, tra cui c'era anche uno di in Verona che voi conoscete, che è Rana. Vabbè, avete fatto che... i soldi convegni, avete fatto. No, no, assolutamente. Stati generali. È stata una situazione in cui le imprese hanno parlato con, in quel momento, il sottosegretario e il viceministro Polidori sulle necessità delle imprese, sulle esportazioni. Lo sa come si chiama il primo dei non eletti? Lo diciamo noi, Andrea Colasio. Perfetto. Giusto? A Colasio, filo castrista. Ma è del PD, è uno del PD, ex democristiano. Filo castrista. Ma come filo castrista? Secondo te, scusa. A dopo, è più di sinistra con noi. Pubblicità. Succedono delle cose molto molto strane, caro Parenzo, mentre un'epoca sembra finita con l'uscita ormai ufficiale di Emilio Fede dal TG4. Scusi, ne parla con un'enfasi come fosse caduto il muro di Berlino. Ma è un però. Po' così, in Italia è un po' così, cioè, inizia una nuova epoca, ecco. Quella senza Emilio Fede, direttore del TG4. Beh, un po' è una nuova epoca che inizia, giusto Caleano? Ma lei, una persona di 80 anni, non è già cacciata da un pezzo, da un'azienda o no? Sì. Com'è possibile che a 80 anni ancora si resista a barbicati? Noi ci divertiamo, dunque diciamo Fede resisti, resta attaccato, purtroppo lotta come un leone. Non ci ha seguito e si è messo d'accordo per qualche strapuntino, per una trasmissioncina così, e vabbè, non ha combattuto. Però lei, uno di 80 anni che resiste, non è un po', no, la fotografia dell'Italia di oggi? Io resto dell'idea che a 65 anni vadano tutti in pensione, compresi i politici. Cioè qui oggi c'è gente che ancora resta... Cioè io se a 80 anni sono come Costanzo che fa le trasmissioni a mezzanotte e mezza biascicando, lo dico con tutto il rispetto, è come Pippo Baudo che fa le interviste dicendo che la Rai non lo chiama per una trasmissione. Pippo Baudo fa le interviste. Ma di che parliamo? Ma di cosa stiamo parlando? No, assurdo. TG3, titoli. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Passare alla crisi è pesante, in recessione tutto l'anno, le banche non concedono prestiti, Napolitano sul lavoro serve spirito unitario. Nuova ondata di paura, borse europee in rosso, maglia nera a Milano, giù le altre il 3%, male le banche, risale lo spread. Spagna in piazza per una giornata di sciopero generale contro i licenziamenti facili e le misure di austerità, attenzione, scontri ed arresti. Oggi un operaio marocchino tenta di suicidarsi dandosi fuoco nel centro di Verona, ieri un artigiano a Bologna, sempre di più le scelte estreme di chi senza stipendio non ce la fa. Resta alta la tensione tra Monti e i partiti, Vendola al PD, bisogna mandare a casa questo governo. Lavoro, la Camusso insiste, no alla controriforma. Mediaset chiude con lo storico direttore del TG4 Emilio Fede e dopo qualche resistenza firma e dichiara: ho sbagliato, sono stato testardo. Acquistati da Marcello Dell'Utri per 17.000 euro i volantini BR, c'è anche la condanna a morte di Moro, i parenti delle vittime del terrorismo ceduti come Franco Bolli. Lugano, addio. Io ho già nostalgia. Ho già nostalgia, ma scusi, secondo lei, Caleano, è mai possibile? Adesso io non ci credo ancora. Siamo sempre in diretta da Verona. Che uno, sempre in diretta da Verona, che uno va con una valigetta con 2 milioni. Lei che uno, non dico che per carità, non è che dico che porta i soldi in Svizzera, però lei le conosce l'economia, come funziona. È un uomo di mondo, come funziona? Come si portano i soldi all'estero? Credo, non ne ho più pari di idea, ma credo che sia un film. Cioè, non è vero? Un film, come può succedere? Ma sai, il personaggio è strano, però, il signor Fede, Io non ci credo, Neanch'io. Qui da noi ha spergiurato 100 milioni di volte che non è così. Detto questo, la valigetta col funzionario che lo riconosce, poi no, non ci credo. Un film. Che forse poi... può diventare tragedia per lui, comico per chi lo guarda, insomma, è una situazione veramente. Prima di lasciarla, c'è altre due curiosità. Beh, devo andare a casa. Bravo. La sua macchina ha una targa non italiana. Come mai? Allora, perché applaudite da Verona? Perché io applaudite? Ho una targa non italiana, perché essendo l'amministratore della mia società slovacca, ha comprato la macchina slovacca. Ho comprato la macchina in Slovacchia. Quindi paga le tasse in Slovacchia? Perché le tasse le pago in Italia. No, la tassa della macchina. Le paga in Slovacchia, però la vettura in Slovacchia, a differenza dell'Italia, può essere per l'amministratore scaricata completamente tutte le spese, mentre in Italia si può scaricare solo il 50%. Cioè lei ha fatto tutto questo impiccio di comprare la Porsche in Slovacchia per pagare il 50%? Non c'è nessun impiccio, ho avuto anche la visita della Guardia di Finanza, tutto qual sia, a settembre. Come è andata? Benissimo. Ecco. quindi è tutto perfettamente in regola. No, perché c'è molta gente che gira con la targa così, non sì, italiana, sì, non avendo un'attività da un'altra parte. Io ho 250 persone in Slovacchia che lavorano. Anche tu che ha comprato la macchina lì, non credo regolare che ci sia nessun. No, sai, è un po' strano, uno vede un deputato, arriva con la macchina, con la targa slovacca. Il deputato non la usa normalmente, il deputato usa sempre sì, la sua macchina italiana. Vabbè, che è una Lancia a tema che ho comprato a gennaio. Ma scusi, sì, ma lei non è che si deve vergognare di fare no, il deputato? Non mi sto mica vergognando. Un po' si pare che si vergogna. No, cioè, per niente, per niente. Lei che dice, se mi vergognavo non venivo qua con quella ma macchina. Ma quando torna? La macchina, di fare il deputato, dico, non è che si vergogna un po'? Perché? No, che ne so. No, mai, si annoia questo. Si annoia questo. Allora, diciamo che fino a dicembre mi divertivo. Cioè sì, come si divertiva? Sì, perché stavo lavorando con Berlusconi per il commercio estero, era una cosa che sapevo fare, l'avevo fatta. Adesso non era più un cavolo da fare. Adesso andare lì a premere un pulsante. Ancora questo pulsante? Bisogna fare anche quello. Tra però, parentesi, forse ma perché è un lavoro usurante, tutti gli italiani sanno, certo che sì, almeno per la testa. Non tutti gli italiani sanno che un nuovo regolamento della Camera dice sì, che sì, se uno non va a votare non prende i soldi, quindi mi sento anche libero. Tanto lei che gli frega di... 300. Ma allora faccia entrare l'altro deputato che perché? Perché è un castrista il signor Colà. Insomma, è un po' un cato comunista. Diciamo, dai. Però io, però, prima di liberare definitivamente, devo risolvere la questione che ci hanno posto in molti del suo mutuo. Il mutuo di Caleano. Ah, sì. Perché che stiamo pagando sta noi? Sta diventando un cult. Cioè, lei paga tutto il suo mutuo con lo stipendio deputato. Questa è una cosa che mi fa impazzire, questa cosa di gioia. Ma lei lo sa di quanti sono i deputati? Cioè, lei quanto paga di mutuo? 15.000 euro al mese? 12.000 euro al mese, scusate. La cifra esatta vogliamo. La cifra trasparenza. Esatta, no, la cifra esatta non ve la dico, punto. No, ma che cosa ha comprato? Un castello? Che ha comprato? Uno stabilimento. 15.000 euro. Ma vive nello stabilimento? Vive in uno stabilimento. Ma come? Uno stabilimento? Non è possibile. Ma no, scusi. Come? Tra le putrelle? Che fa? No, è uno stabilimento ben fatto, ma è uno stabilimento. No, beh, vive dentro lo stabilimento. No, il mutuo è per l'abitazione o per lo per l'abitazione, ma uno non può andare a abitare. Lei lo sa che c'è un 15.000 euro di mutuo. C'è un famoso imprenditore veneto. C'è sì, un famoso imprenditore sì, che vive in un ex centrale dell'Enel sì, perché gli piace, ha fatto la casa nel centrale. Io non posso farmela in uno stabilimento. Dove se l'è fatta? No, ma non ci credo. Ragazzi, non è nello stabilimento. Ma cosa vuol dire nello stabilimento? Ma non è nello stabilimento. È una casa abbastanza grande. Quanti metri quadrati sono? Beh, ma non è un delitto. Non la ricchezza, è un la ricchezza scusa, non è un delitto. 200, 300 metri quadri? Un po' di più. 400? Un po' di più. 500? Meno di 3.000. E come cavolo la riscalda sta casa? Quanto le costa di riscaldamento? Vabbè, comunque mi è arrivata la bolletta ieri e sto pensando che devo chiedere un altro mutuo, te lo assicuro. No, per la bolletta. Beh, faccia il deputato per un'altra legislatura. Mai, che frega. Mai. Non se lo paga, no? Mai. Senta, Monti, quanto è meglio di Berlusconi? Da 1 a 10? Quanto è meglio? Mi dica la verità, Monti, sinceramente. No, voglio una domanda più precisa. Allora, esteticamente, per quello che fa. No, esteticamente, esteticamente adesso, se vuole, si pronuncia. Allora, però, dimmi, diciamo le cose. Allora, il voto fino adesso, da 1 a 10, che gli diamo a Monti? Monti li posso dare dal 7 all'8. Dal 7 all'8. Okay. Dal 7 all'8. Dunque, per adesso il governo Monti in pochi mesi ha fatto quello che ha fatto parecchio, quello che il governo Berlusconi però ci ha tolto tanto, dobbiamo ancora vedere il futuro. Abbiamo bisogno di luce, il governo Monti ci deve ancora dare la luce. Le tasse, dice, le solo tasse per il momento. Tasse, invece sì, dovrebbe cominciare a dire sviluppo. Sì. E allora per lo sviluppo vabbè, bisogna cominciare il costo del lavoro, la burocrazia, insomma le solite cose diciamo. Berlusconi ha avuto un unico grande difetto e glielo ho detto di persona. E qual è? Le cose che andava a fare per i fatti suoi le doveva fare per i fatti suoi e tenersele alla per lui, di Mubarak, punto, non affari suoi, le facevano altri senza dirlo a nessuno, e questa è stata un'emerita stronzata. No, scuso io, ma non è capace io, di farlo quelli sono riservato, problemi suoi, io glielo ho detto. Ma uno che racconta le barzellette, altre, uno che dice che si vanta di andare, quelli sono problemi i suoi personali. Capisco, ma parlando come presidente del consiglio ha fatto delle cose molto positive. Comunque, punto, perché lei è un po' da questo punto di vista mi è un po' bigotto. No, vogliamo ricordare che ha 3 zii preti, certo, 2 gesuiti, 1 scalambrino. Certo. E poi, addirittura. Sì. Ma tutti zii erano? Sì, sono i 3 fratelli maschi di mia madre, che sono 5 femmine. 2 gesuiti, sì, e 1 scalambriano. Sì, signore. Addirittura. Sì. Ho studiato anch'io dei gesuiti. Sì. Hai imparato qualcosa? Lei è a favore delle coppie gay o no? Assolutamente no. Cioè, se vede no, due gay che si baciano alla Porsche, mi fa schifo. Ma come fa schifo? Mi fa schifo. Ma no, Caleano, ma lei è un reazionario. Io non credo che uno, ma cosa se vuole, applaudite? Le cose le fa a casa sua, omofobi, non le fa davanti alla Porsche, punto. A Verona sono omofobi. Scusi un attimo, se lei vede due uomini che si danno un bacio per strada, mi le fa da un'altra parte e le fa schifo. Fa schifo. No, però aspetti, se si danno un bacio a labbra chiuse, però senza la lingua. Ma che è allora? Ma anche a labbra chiuse, cioè senta, io purtroppo sono normale, mi piacciono le donne. Ma perché gli altri che sono? Perché gli altri che sono anormali? No, per carità, hanno altri gusti, ma non sono i miei. Cioè, non sono normali, dice per carità, io credo che la normalità ognuno è soggettiva. È soggettiva. Per me, per lei non sono normali. Non sono normali. Non sono normali. Ma è una cosa normale che si può dire ormai tranquillamente. Ho utilizzato per troppe volte la parola normale. Non so, no, no, niente contro, No, libertà no, loro. Si dice sempre carità, si dice sempre così. Libertà loro. Io passerei sopra la macchina. No, non si spreca la macchina, poi si rompe. Bravo, costa. Costa, quindi. Scusi, dunque, la legalizzazione non ne parliamo. Non è che sono anche un po' malati, no, da curare? Assolutamente. No. Io credo che sono gusti diversi, però gusti. Avendo i miei normali, mi tengo i miei dopo. Quelli sono anormali. Sono loro. Lei la pensa come il suo amico Scilipoti, lo sa? Su questo terreno. Credo che nel vagabondo, nell'universo delle persone, con certe persone si può avere anche un'idea in comune, perché no? Solo una con Scilipoti. Ma non si vergogna poi di essere stato per un... Ecco, quell'immagine quella che abbiamo visto a un certo punto, sì, quella foto, sì, no? Sì, mi ha dato molto fastidio, perché era una persona che non conoscevo, sì, che vedevo per la prima volta, che sì, per fare un favore a un amico molto per bene, sì, che è l'ex sottosegretario Cesario, che lo conosceva, sì, sì, abbiamo fatto questa sceneggiata. Cioè lei ha fatto una foto sua insaputa? No, no, sì, ma non conoscevo si è alleato sua insaputa. Scilipoti, difatti ho preso le distanze un anno secondo dopo, quindi... Sì. Un anno, sì, ci sta, anche un anno secondo dopo. Dunque si vergogna un po' di quella foto là, di quel no, momento. No. Come cioè, nella vita, scusa, nella vita si fa nella mia vita stronzate. Parlamentare di 3 anni, 4, ho fatto quello che altri parlamentari hanno fatto in 30, al giro di tutto l'arco costituzionale. L'arco costituzionale e tutto. Vi posso dire che partendo da Bersani, sì, e Bersani, finendo a Berlusconi, il meglio sì, è sempre Berlusconi. Sì. Perché Bersani e è prendo dentro buona parte, il politico di professione normalmente ce n'è uno solo valido, chi è? Il sindaco. Perché viene eletto dalla persona, viene scelto. Sì. Tutti noi in Parlamento non siamo scelti, no, siamo candidati da 4 capi partito che dicono tu. Cioè, se lei si presenta non piglia mezzo voto. Ma penso di no, anche perché non mi presento più. Non si vota neanche lei. Io quando ho preso, quando sono stato votato con i voti, ho preso voti, sono stato il primo presidente della Confindustria di Vicenza e della Federmeccanica. Ma quando si vota a nome? Tra gli imprenditori, sì. Lei era considerato un falco di Finmeccanica. Con molto piacere, visto che l'ha detto Bertinotti, mi sento certamente un falco nei confronti di Bertinotti. È un padrone, non un imprenditore. Ah, lei è un padrone? Certo che sì. No, ma come sì? C'è una grossissima differenza. Ce l'hai proprio il padrone? Padrone forse per lei. Cuore. Forse per il lei, manager sì, c'è solo la testa. Forse per lei i sindacati... No. Assolutamente, i sindacati devono fare un grande passo avanti ed essere un aiuto all'impresa, non un freno. Sparendo? Perché no? No. Evolvendo. Grazie a Massimo Cagliaro da Verona. Pubblicità, fra poco. Flavio Rossi, sindaco di Verona. Siamo qui 800 24 00 24. Devo fare assolutamente un po' di ascoltatori, c'è Fede che ha fatto l'editoriale. Intanto è con noi il sindaco di Verona, Flavio Tosi, buonasera. Sì, buonasera a voi. Applauso di regime da Verona. Istituto Luce, fra pochi mesi verrà eletto una mozzarellina, sindaco. No, 2 cene stasera, grazie. Ah, okay. Verrà eletto con il 98% fra pochi mesi a Verona. Dunque siamo in una situazione che assomiglia un po' a quella di Kim Il-sung. Però insomma. Poi vedremo quanto ci sarà. Una volta raccontavo prima al sindaco, in Siria il presidente Assad, il segretario del presidente Assad, disse al presidente dopo un'elezione: presidente, abbiamo raggiunto il 98%. E lui, invece di essere contento, disse: voglio sapere nomi e cognomi di quel 2%. Alla fine lei a Verona farà la stessa cosa più o meno, no? Quando prenderà i voti dice: chi è che non mi ha votato? Dov'è l'opposizione? Dov'è un pezzo c'è di ferro da toccare? Uno di sinistra, cavolo, c'è o no? Uno di sinistra. Ma che c'entra la sinistra? Ma io non hai capito niente. Uno, ce n'è una lì, uno che non vota Tosi. Non siete in un regime, alzate le mani voi che siete di sinistra. Chi è che non vota Tosi in questa? Chi è di Verona e non vota Tosi? 4 persone su 350. No, dai, siamo decina, al 75%. Dai. Sondaggio di Mannheimer. Niente, ha perso già il centro-sinistra. Giovanni da Genova, buonasera. Così. Chi è Giovanni? È un ascoltatore. Ma siamo a Verona. Potrà entrare un ascoltatore. Ma che c'entra Genova? Siamo a Verona. Fai parlare. Che ne so, Giovanni. Ma mangia la mozzarella io. Pronto? Dica. Sì, buonasera. Posso parlare? Sì, sì. Beh, niente, io avrei voluto partire da un altro punto, ma dopo aver sentito non so nemmeno il primo, le informazioni che ci ha dato l'onorevole Calearo, bisogna girare tutto. Sì. Ha concluso che dicendo informazioni ha dato? Vede. Beh, mi è sembrato veramente ha una cosa concluso con una, con una tirata un po' omofoba, insomma, però comunque insomma... Sì, ma ha concluso anche con questo comico chi vede e comico chi sente. Sembrava di essere su Scherzi a parte, bisognerebbe farne... Io vi invito a farne un cofanetto da dare ai prossimi candidati, quello che non si deve fare, secondo il mio punto di vista. Ma lui infatti non si vuole candidare, comunque no, già fatto, infatti, guarda. Già fatto, verrà confezionato, è, verrà confezionato domani, sì. La prima domanda è se ha tanto a cuore la sua azienda perché si è fatto candidare. Che vuole fare? Vabbè, questo, l'ambizione, la politica, comunque, il richiamo della politica. No, ma non credo che si sia candidato per pagare il mutuo. No, Roberto da Roma, grazie signor Giovanni. Roberto, ciao Roberto, posso parlare? Sì, ma perché dite sempre posso parlare? Cioè, se ha chiamato è chiaro che può parlare. Sì, grazie. Avete paura del signor Cruciani? Sì, io, signor Cruciani, vorrei dare una piccola, diciamo, un piccolo contributo sull'argomento omosessualità che lei da un po' di giorni, ecco, ne parla. Sì, sono un po' fissato, va bene. Sono un po' fissato. Mesi, direi. Ecco, io dico questo, ha sbagliato l'onorevole Romano La Russa definendo la omosessualità che sono persone malate. Una non malattia. È così. Non è una malattia, perché questo la... E cos'è allora? Sì, potrebbe essere chiamata una patologia, perché purtroppo io ho un contributo patologia. Che do. Ecco, sì, non un è contributo fondamentale. Lei chi è? Un esperto di queste cose? Un professore universitario? Uno scienziato? Un medico? Chi è? Così do un contributo. Poi ma lei no, ma no, benissimo, ma di che si occupa di motori? Di che si occupa? Ma di vari argomenti, insomma. Di vari argomenti. Scusi, a che titolo parla? Cioè, cosa ha letto? Professor, come si chiama? Per definire l'omosessualità una patologia, professor Roberto. Professor Roberto. No, ascolti. Sì. Allora, il nostro DSM-4. No, il DSM-4, no, cos'è il DSM-4? È la scheda telefonica. È il DNA, che cos'è? Volevo dire questo, la definisce purtroppo una patologia. Però c'è la classificazione delle malattie allora, che si chiama ICD-9, con cui tutti i medici devono passare. È una tassa nuova forse? No, ma è la solita telefonata in convenzione. Ah, quella che dall'ospedale? Sì, è la solita telefonata in convenzione. Sì, adesso tornerà in corsia subito, stia tranquillo, che adesso la riportiamo in corsia. Non c'è problema, Roberto. Com'è che si chiamava quella sigla lì? Allora, si chiama ICD-9, sì, che viene usata nelle patologie dell'INPS. Sì, dell'INPS. Esatto, nella voce psichiatria, quando deve descrivere una patologia, la descrive la omosessualità, quindi ne tenga questo anche per dare un contributo al mio. Due infermieri in corsia, disturbi, disturbi nevrotici, disturbi ce ne sono di disturbi. E altri disturbi. Sì. Ed è una omosessualità omodistonica, per cui c'è una classificazione. No, sentiamo tutta la classificazione. No, Roberto, la classificazione lei può continuare a farla tranquillamente, rimanga anche lì. Ogni tanto voglio sentire questa sigla IDSC, non so che cos'era. Sì. Così ci ricordiamo sempre che ci sono queste telefonate in convenzione col Ministero della Salute. Della Salute. 800 24 00 24. Allora, sindaco Tosi, lei quante liste la appoggiano? 150? Quante liste? Sì. Otto liste. Non so, e gareggiano in quanti? 6 36 per lista. 36. No, dico, quante liste, cioè, gli sfidanti quanti sono di questi 8? 1. Cioè, 8 liste l'appoggiano. Sì. No, che c'entra? 8 liste sono in appoggio. E qua gli sfidanti che sfidano Tosi alla poltrona, siamo 6 candidati, al momento siamo in 6. 6 candidati. Al momento, perché pensa di uccidere qualcuno. Ma sua moglie la voterà alla fine, ha deciso o no? Mia moglie, quando sono candidato io mi vota. Ma ha detto una volta di no. È stato detto un giorno da pecora. E quindi è una trasmissione ironica. Vabbè, che c'entra? Ma lì dice cazzate. Ma come di là dice cazzate? Ma adesso io lo dico al mio amico Sabelli che lei dice una cosa del genere. Ma Sabelli lo sa, è così. Cioè lei va lì e dice sa che può dire cazzate. Spesso sì. Cioè, io poi sono di Verona, quindi abbiamo la deroga di Verona. Cioè, potete dire veronesi tutti matti. Tutti matti, cazzate. Ma ho capito, però lei è sicuro che alla fine la notizia è questa: sua moglie ha deciso. Non è che volete chiamarla ancora? Che voi questa chiede... è una buona idea, pessima idea. Perché è una pessima idea? No, è una buona idea. La chiamiamo cellulare? La chiamiamo cellulare? Che numero c'è? Che numero ha sua moglie? Ormai tanto non direbbe più quello che ha detto un giorno da pecora. Ah, perché è stata. No, perché ho fatto come chi era quello di prima del 98%, 2%. Chi cioè, allora, si è convinta alla fine a votarlo o no? Si è convinta democraticamente, sì, a votarmi. In che modo? Democraticamente a casa? Le... A legnate? No, che a legnate. No. No, voglio dire, adesso qui si possono dire anche delle cose scherzose, però lei è del PDL, sua moglie? Mia moglie, come idea politica, è vicino al PDL. Non a tessere, tranne quando sono candidato io, che vota a me lo stesso. E dunque, la moglie, l'annuncio è questo per i signori giornalisti di Verona, sì, eccetera. La moglie di Tosi mi voterà a Tosi, giusto? Sì, sì. Voterà a Tosi. Lei è pronto a metterci, diciamo, tutto sul fuoco. Tutto sul fuoco. Ma anche perché lui si è mangiato mezzo PDL. Cioè, lei, più di mezzo. Cioè, quanto? Cioè, PDL a Verona non esiste più. Tre quarti. Ma lei lo sa che ha anche la postura sì, di una sorta di imperatore romano. Sì, ma cioè, strano che sia la Porsche, ma anche nelle sue foto. Cioè, sì, si dondola strano, così, come se fosse un imperatore. Cioè, sì, una cosa pazzesca. Ma perché ci sono foto di macchine qui, non c'è la foto Mettete di Tosi? Mettete anche le foto di Tosi qui a Verona. No, siamo alla radio. Sì, certo. Sì, allora chi se ne frega della postura? No, vabbè, che c'entra. Però, questa ragione è vera. No, è vero, però... E voi cosa andate evidenziando? No, lo evidenziamo perché lei è così, ha atteggiamento. Non ho capito una cosa, non ho visto anche un immigrato in giro a Verona, come mai? Dove sono spariti gli immigrati qui? No, ma lo chiedo. Allora, così sono il 15% della popolazione, sì, veronese. Però non si vedono, non disturbano. Solo di notte vedono, ci sono e si trovano anche molto bene. Fosse per lei di e votano anche per il sindaco. No. Fosse per lei di questo 15%, no, passeremo un po', no? No. No. No. Cioè sono veronesi a tutti gli effetti ormai. Certo. Vabbè, certo, quelli integrati è chiaro che sono, certo, veronesi. Immigrati, veronesi a tutti regolari, cittadini e residenti. Assolutamente. Ottimo. Per cui è così, è così. Però mi dica la verità, adesso non per rispolverare la vecchia polemica sui Rom, no? Però lei nella sua idea di città, cioè nella sua utopia. È troppo difficile questo termine, no, utopia. Non... Nella sua idea di città. Sì, perché io sono della Lega, quindi meglio che me lo traducete in maniera. No, ha fatto liceo classico. Come lei sa, io. No, ma bastava, stavo con lui e facevo. Tu hai fatto liceo classico? Strano, perché uno della Lega fa liceo classico. Grave. Scusi, perché sono un po' democristiano per quello. Nella sua idea, diciamo, i Rom sarebbe una città libera dai Rom. Questo è il suo ideale di città. Mi dica, questa la verità me la deve dire su questo, però. No, su questo dico quello che penso. Sì, cioè la verità. Cioè, la verità, dico quello che penso io, che non ho detto che sia la verità, no, la verità è quello che penso io. Sinceramente. Allora, gli immigrati che vengono nella nostra città, la larghissima parte, sì, di loro sono venuti qua per cercare un lavoro, per mettere su casa, famiglia e appunto rispettare le regole, sì, di integrarsi. Invece i Rom? Poi c'è una parte della popolazione che sono appunto i Rom, che non danno confondere con i rumeni, sì, perché, no, Rom. No, ma sai perché? Perché le prime persone alle quali andare a chiedere come si comportano spesso i Rom sono i cittadini rumeni, che sono arrabbiati con i Rom, i quali ti spiegano loro. I rumeni sono la prima per presenza a Verona, sì, sono più del 3%, quindi noi, diciamo, infatti, sono, non li confondiamo, appunto, noi. Una bella lista rumena, e rispetto ai comportamenti che spesso mettono in atto, sì, i Rom, sì, che sono comportamenti al di fuori della legalità, al di fuori del rispetto delle regole, sì, del vivere civile. Chi viene qua a casa nostra ed è ospite e pensa di non comportarsi correttamente, non è il benvenuto. Però... E allora, rispetto alla scelta, sì, di fare una vita irregolare al di fuori delle regole, evidentemente c'è un atteggiamento da parte del sindaco che non è certo di accettazione passiva di chi, sì, viene qua a comportarsi in un certo modo. Nella sua idea, vale solo per le persone che si comportano scorrettamente. Molti Rom, mica tutti, molti Rom fanno quel tipo di scelte. Cioè si comportano scorrettamente. Dunque, certo, secondo lei, siccome molti Rom si comportano così, Verona dovrebbe essere libera dai Rom, no, si può dire? Non ho detto questo. Non ha detto questo. Vabbè, detto 30 questo. Secondi, torniamo subito. La mia mamma fa l'architetto, ma sapete una cosa? Secondo me adesso è diventata una fatina, perché sa fare le magie. Mentre fa shopping riesce a vedere i progetti che ha in ufficio e non usa un super binocolo. Dice che le basta il suo super tablet. Passa a Vodafone. Con i pacchetti partita IVA hai chiamate, internet, mail e un tablet Samsung per collegarti al tuo ufficio e ai tuoi documenti. Dove e quando vuoi. Scopri la promozione per te. Chiama l'800 127 777 o vai su partitaiva.vodafone.it. Vodafone. La zanzara. Siamo qui 800 24 0024 col sindaco di Verona Flavio Tosi. con il nuovo Kim Il-sung di Verona, certo, perché avrà un consenso vicino al 100%. Senti, io le dico alcune. Non ti dico cosa sta facendo. Le dico alcune. Siamo sta in una fase nuova. Che sta facendo? Non dico cosa ha toccato, non te lo dico. Devi immaginare la radio, devi immaginarlo solo. Così. Allora, le dico alcune definizioni che sono state. Sapendo di mentire. Le dico alcune definizioni che sono state date da suoi colleghi della Lega, sì, della Lega di Monti, per dire quella che le piace, sì, di più. Sì, definizioni, sì, come al solito, sobrie, moderate, sobrie, molto moderate. Aspetta che scrivo. Prenda allora, scrivo. Allora, la prima è questa: Calderoli, Monti, sì, assassino, Berlusconi e il palo. Ecco. Una cosa molto, molto sobria. Calderoli, cioè, questo. Calderoli. Sempre il signor Calderoli, che è abbastanza scatenato in quest'ultimo, sì, periodo, no? Sì, non c'è niente Monti da fare. Come Schettino. Anche questa Monti è buona, come, no? Schettino. Questa qua, vabbè, questa, sì, che ci porta sugli scogli, sì, che ci porta sugli scogli. Questa la conosco. Poi Borghezio, dai un Borghezio, sì, aspetta, subito, Borghezio, scaldiamo. Bossi, Monti rischia la vita, il Nord lo farà fuori. Questa, sì, è un'altra cosa molto, molto, sì, così leggera. Monti, sempre Calderoli, Monti disgraziato e razzista. Anche. Questo ha detto Calderoli. Sì. Castelli, Monti come Orwell. Questa è un po' più sofisticata. Sì. Poi arriviamo a Borghezio. Monti non serve a un cazzo. Monti massone. Come? Aspetta, Monti non serve a un cazzo. Ma ha detto semplicemente così. Sì. Cioè, Borghezio, due punti. Da noi, tra l'altro, come al solito. Sì. Monti massone, Monti un bambino viziato dell'alta finanza, a Monti... A Monti, molla sta medaglietta, cioè, all'inizio diceva, non ci abbiamo bisogno di un altro senatore del cazzo, adesso non possiamo più dire parolacce, ma comunque, quale le piace di più di tutte queste cose? Quella più bella, quella che sente più sua? Che le scalda il cuore. Adesso mi dirà quella più moderata in assoluto, sì, naturalmente, no? Ma diciamo che preferisco articolare le critiche piuttosto che dare degli slogan. Vabbè, questo d'accordo, però. Appunto. E quindi non è che prendo una frase qualsiasi, ma certo, lì e dico che la condivido. Di Bossi, quando dice, Bossi, quando dice no, Monti rischia la vita, il Nord lo farà fuori. Ma era in senso figurato. Sempre in senso, sempre figurato. Senso figurato. Sempre senso, senso, mi tolgo la curiosità: come fa uno a essere calderoniano, ad esempio, un seguace di Calderoli, così proprio distinto? Uno vede Calderoli e dice, io voglio essere della tua corrente, calderoniano. Come si fa? Cioè, io capisco come si possa essere Tosiani. Cioè, gli tosi, devi andare, dice, sì, a Bergamo, a chiedere a chi sta a Bergamo. Lei capisce chi è calderoniano, diciamo. Calderoliano. Calderoliano. Lei capisce chi è, chi fa questa scelta, diciamo. Bisogna andare a Bergamo a chiederlo a chi sta a Bergamo. Oggi è diventato quando uno certo, quando uno è sotto elezione diventa di un moderato, perché deve prendere più voti possibile, deve raggiungere il 98% come Assad. Senta, nel futuro della Lega, ammette che ci sono tre possibilità, no? Di dopo Bossi, quando sarà? Nel 2050, quando sarà dopo Bossi? Ah, so, ditemelo voi. Lo dica, no, Maroni, Calderoli e Tosi, lei chi vota? Maroni. Sì. Maroni. Tra Maroni e Calderoli, Maroni tutta la vita. Cioè lui, tra Maroni, Calderoli e Tosi, Maroni. Maroni, sì, cioè, tra Maroni e Calderoli? Senza Tosi, Tosi lo togliamo. Maroni. Maroni. Beh, per forza. Cioè, più attrezzato, insomma, rispetto a Calderoli. Ma uno va anche a simpatia, a quello che sono i sentimenti. Anche un po' fisionomica, forse, no? Un po' espressioni del viso, sguardi, no? No, ma che c'è? E tu cosa voteresti fra Maroni e Calderoli? No, beh, io anch'io Maroni. Però... Appunto, vedi che la pensiamo alla stessa cosa. Perché voteresti Maroni? Perché non sei calderoliano? Scusi, perché ho delle riserve, piccole riserve. Sulla fisionomica, Ho delle riserve, diciamo così. Però lei si è accorto che in questa polemica furibonda contro Monti voi siete come la CGIL, come la FIOM, come la CGIL, come Di Pietro, avete le stesse posizioni, non la preoccupa un po' questa cosa qui? Cioè voi contro Monti usate le stesse parole, al di là poi delle cose del Nord che è un altro discorso, che usa la CGIL, la FIOM, l'Italia dei Valori? Ma diciamo che al di là degli slogan, che gli slogan restano slogan, noi siamo all'opposizione fin dall'inizio. Come loro? E rispetto a quelle che sono le scelte fatte dal governo Monti e dai provvedimenti che ha approvato, e vedremo a giugno quando arriverà l'effetto pratico e la traduzione dell'IMU e capiremo più concretamente cosa vuol dire, io penso che Monti, io non sono uno di quelli che tende a fare opposizione tanto per farla, se facesse un provvedimento a favore della mia città o comunque in generale della popolazione italiana, non è il male assoluto. Fatto salvo si vede cosa uno... Non è l'uomo della finanza e delle banche, come dicono al di là che uno sia delle finanze o delle banche, bisogna vedere cosa fa. Cosa fa. E sta facendo male, secondo me. E sta facendo male perché doveva ridurre la spesa pubblica, che era l'unica cosa che era chiamato a fare, e invece ha aumentato le tasse. Borghezio lo prenderebbe a calci nel sedere, anche lei? No, non è il mio stile. Non è il suo stile? Non è il mio stile. Che farebbe lei? con Monti? Io no, voterei contro quando, quando ho avuto un provvedimento sbagliato, e se per caso proponesse un provvedimento condivisibile lo sosterrei. Senta, ma col PDL se c'è, come dire, una volta la Lega diceva, ed è tornato un po' a quegli slogan, non gli stessi, Bossi diceva Berlusconi mafioso, se lo ricorda, lei era ragazzino forse, non solo, giovane. Mi ricordo. Se lo ricorda bene. Ero in Lega. Era già in Lega sin da piccolo, come anche i dittatori hanno iniziato così da piccoli. Lei ci credeva a quegli slogan? Anche Andreotti ha cominciato da piccolo. Sì, anche Andreotti. Non è un dittatore. No, ma sto scherzando. Quando Bossi diceva Berlusconi è mio figlio, lei ci credeva a questa cosa qui? È rimasto sempre un po' convinto di questo, no? Questo epiteto, il mafioso di Arco. Sono le iperboli, anche prima voi portavate delle frasi iperboliche, sì, in riferimento a Monti. Probabilmente anche a riferimento a Berlusconi c'erano delle iperboli. Ma lei non è leghista praticamente, perché voi vivete di queste cose qui. Lei no, quello. Io sono moderato. Lei è moderato. E che ci fa nella Lega lei? Sono l'ala moderata della Lega. L'ala moderata della Lega. Ah, però questa qua è una cosa nuova. L'ala moderata della Lega. Dopo il Verona, cosa c'è per lei? Cosa si immagina? Dopo Verona. Il governo prima o poi della non città. È che può fare sempre il sindaco di Verona, Può cambiare la legge, certo. Può cambiare la legge, non è che vuole fare come Formigoni 20 anni in Lombardia, giusto? Ma non credo. Se per caso io rivincessi le elezioni, sì, per caso. Non posso saperlo. Ma se ha senso ancora farle queste elezioni, secondo me, qui a Verona? Che senso? Ormai no. Potrebbe essere un bel risparmio rispetto alla spesa pubblica, costa quasi 1 milione. Dici, i sondaggi sono 70, vinco 70, io le eviterei volentieri, che bisogna farle. E bisogna farle per forza. Sì. No, questo ho sempre detto in maniera... Sì. E dopo, fra se vincessi le elezioni, sì, questo non è ancora detto, fra 5 anni poi chi lo sa. Sì, no, credo, come però si immagina il suo cosa futuro? Immagina il suo futuro? Da qua a 5 anni non è difficile fare delle proiezioni. Cosa le piace ripetere? Fatemi una proiezione dell'economia da qua a 5 anni. Cosa farai tu fra 5 anni? Ma lei cosa si immagina? Tu cosa farai fra 5 anni? Ma io non so neanche se sono vivo da 5 anni. Neanche io. Che se si immagina il governo del Veneto, il governo dell'Italia, all'ONU, Tosi all'ONU. Non sembra mica male. A visitare l'ONU? No, capo dell'ONU, Tosi. Non mica male. Sindaco, dopo Verona, il Veneto. Mi piacerebbe fare il governatore del Veneto. A me piacerebbe essere rieletto sindaco. Ci poniamo quel traguardo. Quello che dura 5 anni, non è che dura. Ma quello dato le elezioni, abbiamo detto che si potrebbero anche non fare. Ma dura 5 anni. Sì, però poi ci si può anche dimettere prima. Che non sappiamo che scarpe portiamo. Va bene, rubiamo altri 5 minuti al sindaco di Verona, Flavio Tosi, che tanto non ha bisogno di fare campagna elettorale. 800 24 00 24, ci sentiamo tra qualche istante. Dalla regia a Milano mandatemi il Fede che si commuove, rischio di commuovermi in questo ultimo editoriale al TG4, mandatemelo, vi prego, mandatemelo. Non vado oltre e non ho scritto niente, perché poi mi capiterebbe di commuovervi e voi di commuovervi. Voglio dirvi grazie, voglio dirvi, ripeto, non è un addio, è soltanto un arrivederci e buona serata su Rete 4. Grazie. Si fa la storia, caro. Beh, esageriamo adesso. Anche lei è nato con Fede, in fin dei conti. No, è nato e cresciuto con Emilio Fede. Qual è il suo conduttore preferito? Non è che guardassi spesso il giornale di Emilio Fede. No, gli faceva un po' schifo, diciamo la verità. No, non sono mai a casa. No, ma non sia così semplice. Ci ammazza tutte le domande. Le faceva schifo. Sono qua apposta. Fede le faceva. Voi siete qua per mettermi in difficoltà. Io sono qua per difendermi. È un muro di gomma. Le faceva un po' schifo il telegramma di Emilio Fede. Dica Radio Padania. Sì. Ogni tanto. Quando scende a far benzina. Cioè lei scende a far benzina, tac, mette Radio Padania, così non la... No, non è vero. Lo sai che dicono delle cose inenarrabili a Radio Padania? Ogni tanto dicono delle cose. Io non riesco. Ultimamente hanno detto che la Padania deve essere come il mondo dei puffi. No. Sì, è così. Ma questo l'avrete detto voi a Zanzara. Ma forse. Quando mai? Radio Padania. L'avrà detto Parenza. Toglietemi la musica. L'ha detto lui. Il mondo dei puffi. La stessa, dicono delle cose pazzesche. Dicono che Lucio Dalla è mezzo padano. Mezzo padano e mezzo terrore, dunque non è padano. Guardi che dicono queste cose qui. Quando lei sarà padrone della Lega, facciamo uno switch off un po', no? Cambiamo un po' stile, facciamo stile Tosi. Ma se uno prendesse quello che diciamo noi in trasmissione adesso, prende 4 cose e le prende 3 frasi e le estrapola. Come fate voi? È chiaro che dopo può sembrare che anche nella vostra trasmissione si dicono. Ma guardi, noi il mondo dei puffi, la Padania è uguale al mondo dei puffi, al villaggio dei puffi, non lo diciamo. Lo vorreste, ma no. Lo vorreste. Ma per lei la Padania è una cosa inesistente. Una volta Maroni recentemente l'ha anche detto: sì, la Padania, noi lo diciamo, però poi in realtà non ci crediamo. Mi dica la verità, lei non è che ci crede poi così tanto a questa padania? Allora, la Lega nasce come Lega Nord nell'80... Beh, certo. Per l'indipendenza della padania. Va bene, dai, d'accordo. Padania, dai, non ci crede neanche lei. Se volete vi rispondo. Ma siamo di fronte a gente seria, non può dire davanti a questa gente seria, imprenditori, tutta gente per bene, normale, lavoratori, che lei punta alla padania. Ma sono qua per divertirsi anche loro. Ma non perché... Ma non che punta lei... Per sentire voi... Ma non punta alla padania, cioè lei la padania per lei non esiste, su, diciamo, la padania è una cosa utopica, come uno pensa, come diceva Parenzo, bubù, come dire, la terra di bubù, o no? Posso rispondere? Sì, sì, prego, senza pippone. Allora, bisogna che ci sia un ragionamento, non è che posso rispondere quello che volete voi. No, però ha ragione, sindaco in carica, perfetto. Anzi uscente. Uscente? È la parola corretta, uscente. Sì. E dunque? Allora, la Lega nasce come Lega Nord nell'89 sì. E come obiettivo da allora si pone il federalismo e... No, lei vada pure avanti, è molto interessante questo che ci sta dicendo. E quello resta l'obiettivo dall'89 in avanti. Quale obiettivo? Dopodiché l'obiettivo, tu quando fai una strategia per arrivare a un risultato, ci puoi arrivare per una strada, ci puoi arrivare per un'altra. E nel corso di più di 20 anni sono cambiate le strategie per arrivare al medesimo risultato. Che è l'indipendenza della Se io facessi una trattativa con te, David, su una qualsiasi cosa, magari, non so, siamo in una concessionaria, tu vuoi vendermi una macchina e io sono qua per comprarla. Non qua alla Porsche, perché non andare in un'altra concessionaria, perché magari andiamo all'Audi, perché qua costano troppo. E... tanto è uguale. Allora, tu ovviamente parti da una certa cifra. Io sparo più basso. E allora, quando c'è un obiettivo da raggiungere, uno parte a 100 per poi magari arrivare a 50. Quindi voi avete inventato sta roba della padania per portare il federalismo, questo mi sta dicendo? Io sto dicendo che tu devi puntare, è come quando uno lotta contro la fame nel mondo, non è che pensa che da qua a 3 mesi la fame nel mondo è scomparsa. Ridurla. Uno si pone un obiettivo di lunga... Ma cominciare con Calderoli ad esempio, c'è un obiettivo molto semplice. Calderoli lo facciamo dichiarare un po' meglio. Vabbè, dobbiamo lasciare tosse. Allora, 3-4 domande a raffica sul caso Boni. Lei ha detto che farebbe bene a dimettersi per motivi di opportunità politica, giusto? È corretto? Resta ma perché pensate di farmi una domanda che vi rispondo in 30 secondi? Adesso vi spiego il mio pensiero. No, non lo so. Allora, premesso che il quadro accusatorio è quanto mai confuso. È confuso. Assolutamente. Dunque? Se uno si va a guardare le carte, quello che è uscito sul giornale, si capisce ben poco di quella che è l'accusa. E dunque? Ciò premesso, siccome siamo anche in campagna elettorale e quindi è chiaro che quello è un tema delicato perché una parte dell'elettorato rispetto a una notizia di quel tipo, per quanto confusa, comunque la cosa può essere strumentalizzata politicamente. E dunque è meglio di mettersi dal presidenza. Io siccome faccio parte di un movimento che è la Lega Nord, nel momento in cui ci fosse una situazione come questa rinuncerei a quel ruolo, quindi a presidenza del Consiglio regionale, per evitare che il mio movimento venga esposto a critiche o venga strumentalizzato per quel tipo di situazione. Tutto lì. E lei, se il Verona viene in Serie A, che cosa fa? Si spoglia come la Ferilli? No, non credo che questi veronesi interesserebbero neanche. No, però mi dica, faccio il bagno nella fontana. Fa il bagno nella fontana. Nudo. No, con il vestito normalmente. Anche perché il bagno nella fontana lo devi far vestito normalmente, perché se lo fai in costume sono capaci tutti, vero? Devi farlo vestito. Domanda ridicola. Non so sta fontana. Ma sei tifoso di calcio te? No, l'hai dimostrato. Scusi, lei che è un sindaco ultra, qual è la follia che ha fatto per il Verona quando era ragazzino? Ha tirato un sasso a un poliziotto, è andato in trasferta con i bastoni. Niente di tutto questo. Non mi dica che era calmo, perché lo so che non è così. Allora, vai allo stadio, vai in curva, evidentemente c'è un po' di vivacità, non sono uno che canta. Un bel coro contro i napoletani, che voi siete specializzati. Lei era specializzato nei cori contro i napoletani. Beh, ma anche i napoletani sono specializzati negli sfottò contro il Verona. Lei è specializzato. Ce n'era uno meraviglioso che è Giulietta e una Zoccola. Non possiamo più dirlo. Voi com'è che rispondavate a questo? Non lo posso dire. No, ma come non lo può dire? Lo deve dire. No, c'è la censura. No, vabbè, ma lei è troppo democristiano stasera. Ma un gay pride a Verona lo organizzerebbe lei? Sì. Bellissimo. Non è che sta l'amministrazione comunale a organizzarlo. No, ma anche però, no, il patrocinio lo darebbe? No, il patrocinio no, però se uno pensa di fare una manifestazione a Verona. Bello, con tutti i gay che sfilano per Verona. Se uno pensa di fare una qualsiasi manifestazione a Verona che rispetti le leggi vigenti, poi problema. Le leggi vigenti che sarebbero? Cioè uno si può spogliare o no? Ho detto che rispetti le leggi vigenti, Vabbè, ho capito, che sia un qualsiasi tipo di manifestazione. Sì, ho capito. Noi, a noi quando hanno chiesto rispetti spazi, il pudore, lei dice. No, le leggi vigenti. Noi quando ci sono stati chiesti spazi, ospitalità per eventi o iniziative che magari erano non vicine all'amministrazione o contrarie al pensiero dell'amministrazione. Vabbè, insomma, però, democraticamente a uno lo spazio glielo devi dare. Andiamo alla sostanza. Rispetti il le gay regole, pride. Come chiunque altro. Se un'associazione di gay le dice vogliamo fare il gay pride quest'anno a Verona, lei che dice sì o no? Sono due le strade. Perché voi ignorate la normativa, ve lo dico vabbè, il senso buono del termine. No, se uno vuol fare una manifestazione, intanto non chiede autorizzazione al sindaco, perché il sindaco non ha la potere di negarla. Beh, alcuni sindaci hanno negato piazze per fare manifestazioni. Non possono farlo. Comunica all'autorità competente, che è la questura, l'intenzione di fare la manifestazione. Vabbè. E nel momento in cui la cosa è rispettosa delle regole la fa, appunto. Vabbè. A prescindere dalla volontà del non sindaco. Non vuole rispondere, ma non c'è problema. No, non è che non voglio rispondere. Io non vado a prevaricare i diritti di nessuno. Ecco. Senta una cosa, un'ultimissima domanda riguarda il signor Renzo Bossi. Ah, questo è buono. Domanda buona questa qua. Questo è buono. Domanda buona. Siamo alla radio, quindi non avete potuto percepire, voi che siete in macchina, lo sguardo di Tosi. Allora, uno sguardo assonnato. Alla parola Bossi, Renzo Bossi. Il futuro di Renzo Bossi. Dove sarebbe meglio Renzo Bossi? Al Parlamento Europeo? A Montecitorio? Questa è domanda geniale, eh. Ci ho pensato tutto oggi, sì, Parlamento Europeo, Montecitorio o all'università a studiare? Cioè, ma quattro tre, assessore tre a Verona. O assessore o a Verona. Anche assessore a Verona. Questa è la giunta di Parenzo. O assessore, assessore a Verona no, perché non è veronese. Ecco, non farebbe mai assessore comunque. Assessore a Verona, anche, ma se Bossi la chiamasse e dicesse... Flavio... oggi la tosse mi viene anche bene. Sono Umberto. Bisogna prendere Renzo, metterlo a Verona, lì cambiare un po' di cose. C'è quella cazzo di arena. Quella roba abusiva che hanno fatto i romani. Bisogna buttare giù l'arena. L'arena di Roma. Ecco, cosa direbbe? Un giovane da proporsi. Un giovane da proporsi. Si chiama Renzo. Molto bravo. Io non mi ero, sono l'assessore veronese. Sì. Dunque, siamo a Verona, però è un assessore che non sia veronese. Sto dicendo stronzo, sempre detto, amico dei fascisti, ha portato i fascisti. Legnate, e anche a Cruciani dalle legnate. Vabbè, Parlamento Europeo, Montecitorio o università a studiare? Beh, Parlamento Europeo, siccome per l'Europarlamento si... sarebbe ottimo, diciamo. Siccome per l'Europarlamento si vota con le preferenze, diversamente da altri sistemi elettorali. Certo. Se uno si candida al Parlamento Europeo lo vedrebbe bene. E viene votato da migliaia di persone, va al Parlamento Europeo. Però, no, ma chiunque, la domanda però è precisa, sia, la domanda non sia. Può sfuggire a tutto proprio. Sì. A questo visto che sarebbe candidato nel suo collegio, perché lei sa che per le europee ci sono macro collegi. Non è il mio collegio. Ah, perché è nord-ovest. Vabbè, comunque, comunque lei lo metterebbe la preferenza Bossi-Renzo per l'Europarlamento. Cioè, lo voterebbe mai con lo voterebbe mai Bossi? Ma io voterei uno del mio collegio, voterei un bene. Vabbè, la lasciamo perdere. Sempre questa storia. Allora, Parlamento Europeo, Montecitorio o università a studiare? Quello università a studiare è un'opzione buona, non è ma anche quelle private. Ma voi dove lo vedreste meglio? Come? All'università a studiare. Tra queste tre l'università a studiare. Sì, anche sul Monviso tutto il giorno a raccogliere l'acqua uno del Po. Andare all'università. Uno si rinfresca. Uno può andare all'università a studiare. Sì, e cioè, anche mi spiega, il motivo per cui Renzo Bossi deve fare politica. Adesso questo capo non ce lo dobbiamo dire. Perché deve fare politica? È stato candidato al Consiglio regionale. Vabbè, d'accordo, ma perché deve fare politica per forza? Ed è stato votato da alcune migliaia di persone che hanno scritto Bossi sulla scheda. Ma è un po' come Giorgio Lamalfa, praticamente lo stesso ruolo, no? Cioè Ugo Lamalfa aveva un figlio, Giorgio Lamalfa, Umberto Bossi ha un figlio, Renzo Bossi. Possiamo fare questo paragone tra Giorgio Lamalfa e Renzo Bossi? Beh, il cognome è diverso. Vabbè, non vuole rispondere a nulla. Tra Parlamento Europeo, che Parlamento Europeo va bene, tra questi tre va bene, meglio il Parlamento Europeo, no? Ho detto che se venisse candidato al Parlamento Europeo, ci sono le preferenze, e raccogliesse un adeguato numero di pazzesca, preferenze, sì. Però sai che è meglio beccarlo in macchina quando al telefono, quando è un po'... Sì, perché non è concentrato in macchina. No, in macchina non è concentrato, e magari gli scappa qualche parola. Parla più a ruota libera. Flavio Tosi, sindaco di Verona, grazie. Grazie a voi. Scusi un attimo, lei... Prego, ti parlava in cauda venendo. Quando era ragazzino, era un po' fascista lei, era un po' di destra quando era ragazzotto. Io il primo movimento politico, l'unico al quale voto. Sono stato iscritto alla Lega Nord. E il primo voto alla Lega Nord, perché per la mia età ho potuto votare già Lega Nord. Vabbè, tanto ti è andata male, non si arriva questa. A nulla. Vabbè, vale pubblicità. Grazie a voi. Siamo qui 800 24 00 24, viabilità, fra poco un grandissimo ospite. Beh, uno dei miei miti di quando ero ragazzino. Cioè, tu... sono cresciuto, diciamo, con questa cultura, io, quella ma, che ma tu dici così per tutti, innanzitutto. No, beh, sì, sì, dici così per tutti. Per Luchino Visconti non lo dico, ad esempio. No, dici così per tutti, sono nato nel mito di... Ma è vero, lo dice per tutti. Conosco l'ospite, la filmografia dell'ospite che avremo tra poco e mi ha accompagnato nella mia infanzia. Orlando da Ferrara, poi traffico. Ma che è Leo Luca Orlando? No, Leo Luca Orlando non credo. Orlando da Pure. Vada, vada Orlando, vada. Allora, finalmente posso parlare con lei. Sì. Le faccio una bella dedica, visto che stasera è una bella, fate una bella ironia. Lo dico subito. Dai Cruciani, forza, insisti. Fai tacere il comunista. Cruciani, abbi fede. Ce la farai, se tu le vede che mi do fede. Pronto, pronto, dica, dica. No, non mi indigno, sì, mi incazzo. Quello che lei dice e pensa a me non frega un cazzo. Auguri. Ma no, auguri a lei soprattutto. Ha composto una sorta di poesia, sì. Prendendo alcune espressioni che faccio, una sorta di malattia gravissima. Questo lo tengono dentro almeno un mese per controlli. Dici? Sicuro, con l'endovena proprio così. Tu endovena. Vabbè, stia tranquillo perché... Non c'è problema, siamo sempre in orario telefonate in convenzione. Sì, il Ministero della Salute, Radio La Zanzara. Emanuele da Bergamo, poi traffico. Emanuele, vada. Niente, volevo dire come mai Parenzo ce l'ha sempre con quelli che non la pensano come lui, primo. No, noi ce l'abbiamo sempre con chiunque, basta, dipende da quello che dicono, insomma. Ma poi sarebbe bello che parlasse almeno 10 minuti di un argomento, perché comunque avete affrontato un sacco di argomenti, io sono 35 minuti che sono al telefono. Avete parlato di un sacco di cose, se posso... Scusi un attimo, lei è rimasto 35 minuti per poi insultarci e dire che non abbiamo fatto parlare. Dica di cosa vuole parlare, sì. Così scelga un argomento, scelga una roba, dica la sua e... Sì, ma per esempio sul fatto di Emilio Fede, non che sia un suo fan, che è anziano e tutto quanto. Ecco, anche lì i politici, come il nostro bel Presidente della Repubblica, potrebbe anche lui ritirarsi, per esempio. Sì. I politici vecchi che abbiamo in Italia potrebbero anche loro essere mandati a casa. Bene, sì. Sì, che siano un po' troppo vecchi. 35 minuti al telefono per dire questa cosa. No, benissimo, in carità, io non rispetto tutto. No, ma bisogna rispettare questa cosa. Adesso non è che sono tutte follie delle telefonate da convenzione. L'ascoltatore ha detto una cosa anche corretta. È vero che c'è una gerontocrazia che non vuole mollare, io l'ho detto prima, cioè uno non si può lamentare continuamente a 80 anni. Io Fede lo adoro, lo abbiamo spessissimo ospite qui, fra poco lo chiameremo pure al telefono, ci ha promesso che sarebbe stato qui, gli dobbiamo far rincontrare una persona che credo conosca, certo. Forse alla lontana, poco, sì, sì. E no. E forse chiameremo anche la moglie per sapere se è arrabbiata, devo dire, non incazzata. La senatrice De Feo. A me mi stupisce, per esempio, che uno come Pippo Baudo faccia interviste al Corriere della Sera. Ma lei ce l'ha proprio con il signor Pippo Baudo. Non so perché, quell'intervista mi ha sconvolto, in cui uno dice: ma la RAI non mi chiama più. Pippo Baudo, la RAI non mi chiama più. Beh, cioè, ma no, è una cosa assurda, ma dopo essere stato una colonna della RAI, uno a un certo punto dice: vada al Museo delle Cere, lei dice. Ma no, al Museo delle Cere, uno a un certo punto dice: vabbè, a 80 anni ti puoi anche ritirare, sì. Cioè, o comunque ti puoi mettere il cuore in pace, per carità, poi uno deve lavorare, è giusto. Però, insomma, poi no, in contemporanea, quando dicono queste cose, le stesse persone dicono anche: beh, questo qua però è un paese che ha bisogno di dare spazio ai giovani. Sì, ah. Cominciate voi. Traffico. Poi troveranno le donne in un pupazzo come te, ma... Non sono bello, piaccio. Sono bello piaccio, non sono bello piaccio. Jerry Calà, buonasera, grandissimo. Grazie, grazie. Alla Zanzara per la prima volta. Beh, Jerry Calà, siamo molto contenti. Siamo al top. Ma siamo come mai di solito chiamate gli intellettuali? Ma che intellettuali? Intellettuali? I politici che non sono intellettuali. Per principio non sono intellettuali. Beh, ma intanto è bellissimo essere qua, insomma, qua siete venuti a trovarmi a casa mia, quindi... Perché tu vivi proprio a Verona. Io vivo diamo a Verona. Questa notizia in esclusiva. Sì, io vivo a Verona. Perfetto. Prima nella città della Zoccola Giulietta, no, come dicono. A Napoli lo non dicono. Non possiamo dire più parolacce. Soprattutto sei siciliano. Pronto, Jerry, no? Lo sento, sì. Sei siciliano, sbaglio? Io sono siciliano, sì. Poi ti sei trasferito a Verona? Prima a Milano e poi a Verona, sono apolide io. Sei apolide, sì, eh? Sì. Sei apolide. Mi chiamo Calogero io di nome. Sì. Calogero Calà, insomma. Roma. Come e poi vai, perché hai fatto Jerry? Perché questa americanizzazione? Ma guarda, allora ti spiego, io negli anni 50, quando sono arrivato, perché io ho una certa età, ragazzi, quest'anno faccio 61, 61, grazie. No, 61. Grazie. Come te li porti secondo te? Che problemi hai? Me li porto e basta. Te li porti? Qualche problemino, no? No, no, ancora non vogliamo no. Sapere niente. No, ancora no, la prostata ancora no. No, ma non quello, perché subito pensare a quello? No, no, perché i problemi sono quelli lì. No. Soprattutto come uno come te, che cioè, le donne gli sono sempre piaciute, diciamo. Sì, sì. E poi, più o meno di Berlusconi, adesso non per tornare. No, ma io sono molto favorevole alle erezioni anticipate, allora. No. Sono in linea, insomma. Sì, poi adesso è una moglie, no, che ha 20 anni meno di te. Sì, 18, dai, non esageriamo. 18 anni. Sì. Ma tu che hai una bambina di 8, un bambino di 8? Ho un bambino di 9 anni. Gli faresti vedere i tuoi film vecchi? No, li ha già visti tutti. Come, li ha già visti da 8 anni? Sì, beh, ma non ho mai fatto film porno io. Forse, no, perché? Ti sbagli con Rocco Papà. No, come si chiama? Rocco Siffredi. No, quello ieri sera ci ha provocato un casino, non me ne parlare. Ha detto... No, ho fatto... Diciamo che ho fatto film che erano un po' così, pruriginoso. No, ma neanche troppo. Neanche fine, troppo. Beh, rispetto a quelli di oggi, sembrava Candy Candy. Com'era quella di Sapore di Sauli, dove tu entravi nell'ascensore con il padrone della Sauli, no? Il pubblicitario. A sì, te piace... Tu eri innamorato, povero, della moglie. Un applauso al povero alla memoria, povero Gianfabio Bosso. Grande caratterista. Ma tu eri dentro questo ascensore col, sì, padrone di questa Sauli, no? Sapore di... Tu facevi il pubblicitario, lì, se non ricordo male. Sì. E ti eri innamorato della moglie del padrone, che era la grande Sabrina Salerno, ragazzi. E ti eri innamorato della moglie del padrone. A un certo punto, cos'è che dice la battuta chiave del film lì, quando si chiude la porta dell'ascensore? Sapore di Sauli, quella roba lì. No, cosa dici? Cosa dicevi? È la moglie del padrone, però io comunque me la ciulo lo stesso. Mi piace da morire. Le frasi mitiche. Ma tu sai che io ho saputo, siccome Sauli riecheggia il nome di un personaggio veronese, sì, che produce anche, che produce lui... anche lui Pandori. Sì. So che il signore, infatti a Verona il mio film è rimasto solo una settimana, perché so che quel signore si era bianco, ha fatto molta pressione, perché addirittura sì, perché sembra che ci fossero delle analogie nella sua, no, adesso basta, ecco, quindi. aspetta chi, okay, è? Chi è? Emilio? Direttore? Chi è? Balli? No, la Zanzara, caro Emilio, ciao. Ma scusa, chiamami sul telefono, sul fisso. E che ne so io che ti devo chiamare sul fisso? Ma dove, scusa, sei, direttore? Dove sei? Sul fisso. Sul fisso? Ma beh, dove sei però? Dove in sei? In redazione, fisso? In redazione. Ma che stai facendo? Ti hanno cacciato. Via. A te, appunto. E io mi sono nascosto, come tutte le zanzare, non mi pescano. Vabbè, ti facciamo chiamare. Qual è il rispondi numero? Rispondi però. Rispondi 02, però. 02, poi? 20, dai, 2102 2800. 2102 2800. Perfetto, 2 milioni di persone ora lo sanno. Va bene, ti chiamiamo tra un attimo a Milano. Grazie. C'è un grande pubblico che ti aspetta, un grandissimo pubblico che ti aspetta qui, caro Emilio. Pronto? Ha chiuso, vabbè. Chiamatelo, lo conosci il signor Fede? Sì, lo conosco. Questo è un bel intervento sulla privacy. Dai, noi facciamo sempre questi scherzi. No, leggerissima. Beh, io, guarda, il mio l'hanno messo su Facebook. C'è un gruppo su Facebook che si chiamano Quelli che hanno il numero di Jerry Calà. Ma veramente? Te lo giuro. E chi ti chiama? Io lo tengo e a secondo dei miei umori o li mando a cagare oppure... Non si può più dire la parola mando. Invece delle volte sono buono, quando mi prendono in buono mi dicono Jerry, dici libidine, io gli faccio tutte le mie libidine, doppia libidine. Se si accontentano di così poco, fatti fare almeno l'autoricarica chiave, no? Quello di telefono, l'autoricarica. Ma ve lo chiamate sto Fede da Dov'è Milano? Fede, no? Dai, Fede. Ci ha dato un numero farlocco, non è possibile. Hanno cambiato anche il numero della redazione. Ti hanno cambiato il numero di telefono. Ma come l'hai vissuta questa cosa, di questo cambiamento epocale? No, guarda, la cosa strana, allora io lunedì sera, infatti ci sono rimasto un po' così, lunedì sera stavo mangiando in un ristorante a Milano, sì. è passato Emilio e mi ha visto dal vetro, dalla vetrata del ristorante, e con grande mio onore è venuto dentro a salutarmi, ci siamo abbracciati, io gli ho detto guarda Emilio che fra un po' a fine maggio esce il mio nuovo film, quindi dico verrò da te a fare un po' di promozione, sì. Lui dice sì, la mattina lo volevo chiamare ma già non c'era più. Non ha fatto il tempo a farmi l'ultima marchetta, una sfida. figa pazzesca. Ma quando c'è uno agli amici, fai l'appello al nuovo direttore Toti, signor Toti, signor Toti. A maggio, quando esce il film, fammi una sfidata, no? Finché ancora tutte e due le gambe. Poi Enrico Toti, Enrico Toti, adesso poveraccio, che citazione che sì, ho capito, però povero signor Toti, direttore Toti, ecco, siccome il signor Fede mi ha promesso di farmi fare un bel marchettone lì nel film, sul nuovo film Operazione Vacanze, che uscirà a maggio. Troppo presto, marchetta qua non funziona, troppo presto, siamo a marzo ancora. Dopo ti invitiamo, faremo una cosa dopo. Mi raccomando, insomma, lei cerchi di dare un certo, una, come anche si una dice? Continuità. Ah, bravo, una continuità. Potrebbe essere proprio una specie, come di ogni giorno raccontare un aspetto del Fede, film. Fede, lo chiamate o no? Richiamatelo sul cellulare allora. Dai, c'ha un po', come si dice in gergo. È occupato perché lo sta chiamando tutta Italia. Lo so, purtroppo è questo il problema. Chiamiamo la moglie allora, tanto è uguale, chiamiamo la moglie. La signora De Feo, senatrice, ma perché lei deve sapere che il signor Fede ha una moglie in Senato, chissà perché, in quale partito secondo lei? Forza Italia. Non c'è più Forza Italia. Sono rimasto indietro. Lei che ha votato nella sua vita, signor Calà? Guarda, io ho cominciato votando... A 18 anni, cosa A 18 anni votavo PC. Ah, bravo. Ma perché bravo? Cioè, bravo. Cioè, bravo. Cioè... Sei un comunistone. Ma ho detto bravo, si è svelato. Ma non ce l'ha fatta, ha fatto bravo. Sì, bravo. Aspetta. Pronto? Senatrice De Feo? Sì. Diana? Buonasera, la Zanzara, come sta? Chi parla? La Zanzara, signora. La Zanzara, senatrice. Sono Cruciani, Parenzo, come sta, senatrice De Feo? Bene, benissimo. Ma non si è arrabbiata, perché la sentiamo un po' arrabbiata. La disturbiamo, no? No. Non ho capito chi è e che cosa volete, ma... Sì, quello che vogliamo è una cosa complicata. Sono Cruciani e Parenzo dalla Zanzara, si ricorda? Ogni tanto la chiamiamo. Ah, come state, ragazzi? È un po' che non mi mettete in onda tutti i giorni, sono contenta di sentirmi. Come sta lei? Come sta? Io benissimo, sto andando al cinema. Ma come suo marito sta barricato dentro Mediaset e va al cinema a vedere cosa, cara? Ah, siamo barricati dentro casa, ma faccia il piacere. Dunque, allora a Mediaset, sto entrando perché sta cominciando lo spettacolo, chiamatemi un altro giorno. Senatrice, un attimo. Ma quanto è arrabbiata lei con Mediaset per quello che hanno fatto a suo marito? Mi dica solo da 1 a 100 quanto è arrabbiata. Ma io non mi arrabbio mai. Allora, non mi arrabbio mai e non sono affatto arrabbiata. Penso che adesso si riposa un po', poi ci riprenderà a lavorare come prima. Va bene? E che fa, secondo lei? Cosa farà? Che farà? Voi non lo conoscete? Io lo conosco. È difficilissimo prevedere che cosa faccia. Ma dove lo vedrebbe bene? Alla conduzione di Matrix, ad esempio, non so. Buonasera, sto cercando in sala cinematografica. Ma che film va a vedere, signora De Feo? Sì. È chiuso. Vabbè, è normale che sia così. Se deve vedere Quarto Potere. Borsa, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24 con Jerry Calà qui in diretta a Verona. Maracaibo, mare forza 9. Su, fuggire Che film era questo, Jerry? Questo era il Vacanze di Natale The Original, però. Come The Original? L'unico, il primo. Ah, cioè. Perché dopo. Intanto Emilio Fede, buonasera. Eccomi, mi avete fatto aspettare una vita, Scusaci, direttore. Ma tu lo sai, la pubblicità, hai lavorato a Mediaset per una vita. Hai lavorato, spero di continuare a lavorare, perché no? Ma scusa, però adesso cerchiamo di chiarire. Innanzitutto voglio presentarti. Dove sei? Voglio presentarti una persona, il signor Jerry Calà, che sicuramente conosci. Ciao Jerry. Ciao Emilio. Ciao. Eccoci. Hai visto? Ci siamo visti l'altra sera, ci risentiamo. Sì. È vero. Radio. Stavo raccontando che abbiamo visto un bellissimo film Sapore di Sale e ci siamo con qualcuno che dico io tanto ma tanto divertiti, perché veramente. Ma con chi l'hai visto? Con chi l'hai visto suo Sapore di Sale? L'ho visto con qualcuno che si chiama qualcuno. Qualcuno o qualcuna? Qualcuno? No, qualcuno. Jerry lo sa, ma non è importante, vedo. Ma non è Berlusconi. Dimmi una cosa. Sì. Come sì? Hai firmato la lettera di dimissioni? La lettera di dimissioni l'ho firmata, sai come mi ricordo più, se l'altro ieri o ieri, forse ieri, dimissioni da direzione del CG4, sì. Sì. No, ma non c'è nulla di... Guarda, sai cos'è che dispiace in tutta questa vicenda? Cioè, quello, il polverone che si è creato, purtroppo. Beh, anche tu ci hai messo del tuo. Starbacco, io dovevo firmare prima perché mi ero impegnato a lasciare la direzione del CG4, per avviarmi ad un'altra offerta che mi veniva fatta all'interno dell'azienda, certamente importante. Sono massacrato dalle telefonate, centinaia. Allora, No, prendila, sono curioso, magari Berlusconi. Se fai tutto in diretta. No, quello è possibile. Chi è? Sì. Ah, Leo, ciao, ti richiamo. Ciao, Leo è un mio vecchio amico, ho detto meno male che hai lasciato, così possiamo vederci a Desenzano sul Garda, un mio amico a Desenzano sul Garda. Però voglio dire, quindi è stato fatto un clamore inutile, da parte tua? Da parte mia no, poveretto. Io ho tentato di spiegare, di capire come stavano le cose e pensate delle. Cioè vuol dire io. Si capisce? No, però scusa, Emilio, allora, beviti un bicchiere d'acqua. La cosa che ho saputo io è che questa intervista che tu hai fatto ieri al Corriere della Sera, hai parlato di trame dentro media. No, al Corriere della Sera, ti stai riferendo ad una battuta su Repubblica. Vabbè, quello che è, insomma, hai parlato di trame dentro Mediaset, Mediaset c'è qualcuno che trama contro di me. Così hanno questa cosa ha fatto arrabbiare moltissimo il signor Confalonieri. Hanno perfettamente, ma Confalonieri, guarda, è uno straordinario personaggio e io dico sempre, ma non adesso che tanto i report sono diversi, nel senso che ormai sono quasi fuori, cioè quella persona per me ha fatti compagnia per anni. Sì. Che difetto ha? Dimmi un difetto che ha in questa vicenda, che errore ha commesso il signor Confalonieri? Nessuno, sono io che l'ho commesso nei confronti della gente, perché ho continuato a fare il testone come mia abitudine, a dire io dovevo firmare per subito, uscire senza condizioni. Dovevo uscire il 1 luglio. Poi ho tentato di allungare i tempi fino alla fine dell'anno. Su questo c'è stato una legittima cosa da parte dell'azienda che dice ma hai detto che devi andare. Allora, insomma, comunque praticamente sono venuti, l'ora che fai? Accetti di firmare per il 1 luglio? Io ho detto no, voglio aspettare fino alla fine dell'anno. No, allora se questo è l'impegno tu non lo mantieni, allora comunque lasci la direzione del TG4. Lasci la direzione del TG4. E che vuoi fare adesso? Io cosa vado a fare? Innanzitutto vado in vacanza, no? Giusto? Ti riposo. Adesso vado in vacanza, però sapete già tutto. Ma abbiamo chiamato tua moglie che stava andando al cinema. Stava andando al cinema, è vero. La straordinaria moglie, sempre devo dire proprio straordinaria. Allora, però devo dire, la moglie l'hai maltrattata in questi anni, Sì, non l'ho maltrattata, l'ho trascurata, ma l'ho sempre adorata, perché rimane veramente, quando si dice, la donna troppe donne lì intorno, troppe donne. Troppe tentazioni, come dire, troppe no? Troppe tentazioni, la mia età, dai, così, porca miseria. No, ma che c'entra? A 80 anni non si può... Ci sono delle pastiglie, delle cose, no? Delle flebo. Le flebo funzionano benissimo, nel senso che ti addormenti. Allora, dai, sogni. Fai la vacanza, quanto dura sta vacanza? Un mese? Dopodiché, adesso, oggi ha preso possesso Giovanni Toti, ho già firmato dal direttore, momento emozionante per lui, perché rispetto a me è un ragazzo per bene, un ragazzo che farà bene sicuramente. Per quanto mi riguarda, io andrò a farmi un periodo finalmente di vacanza. Dico con presunzione, naturalmente, che non ero mai uscito a prendere un caffè. Oggi alle 5:30 sono uscito, c'era una folla di fotografi, di giornalisti. Non pensavo. Come ti piace questa cosa? Sai cos'è che mi fa piacere? A leggere i giornali, diciamolo, che mi hanno dato conto di essere un professionista. Io avevo un semplice, porca miseria, il giorno che me ne andrò per sempre, la curiosità che avrei è cosa fanno mentre mi portano via. Ebbene, il necrologio anticipato l'ho avuto oggi, perché tutto quello che hanno detto oramai lo diranno quando me ne sarò andato. Senti, ti è venuta un po' malinconica, non sei più vispo come Emilio, l'altro giorno. Emilio, sentirti così... essere vispo, che ieri quando è stato per dire, mi chiama un collega di un giornale, che poi ho pregato di rettificare e non l'ha fatto, naturalmente, per dirmi, sai che ti hanno licenziato? Come avevano licenziato? Io non lo sapevo. Un po' è vero che ti hanno licenziato, poi adesso avete rimediato, c'è stato un mezzo accordo, però all'inizio ti avevano licenziato. No, quale mezzo accordo? Cioè, io ho lasciato la direzione del TG4, poi l'azienda se riterrà... Dunque sei fuori da Mediaset, in questo momento sei fuori da Mediaset, diciamo la verità. In questo momento sono fuori e non sono fuori. Ma che vuol dire non sei fuori? Ma solo sulla porta. Ma scusa Jerry, di qualcosa, ma tu non sei un po' toccato da questo fatto che Emilio Fede dopo tanti anni? È una storia pazzesca. Beh, io sono Emilio Fede è un'istituzione, beh, poi è stato anche continua ad essere, ma è stato, non è bellissimo. Ha fatto sempre Emilio. Ha fatto sempre una grandissima informazione, insomma, ricordiamo tutto quello che ha fatto nella sua carriera di giornalisti. Come no? È stato il primo ad annunciare la guerra in Iraq, ad esempio. Sì. Il primo in Italia in assoluto. Esatto. Poi, ma tu lo vedevi il TG4? Io sempre lo vedo. Sempre, no, tu aspettavi il tenente Colombo che veniva dopo. No, io vedo sempre il TG4, un telegiornale moderno, divertente. Sì. Con un conduttore meraviglioso. Un conduttore meraviglioso, sempre abbronzato perché ha rispetto del pubblico, capito? Cioè uno si abbronza. E certo, perché uno perché si deve. No, perché ci sono tanti, perché adesso siccome è di moda fare i poverini, che uno adesso tutti dicono che non arrivano fino a mese, anche quelli che guadagnano 100.000 euro. Quando vedi Fede, quando vedi tutto Fede, pensi tranne che non arrivi a fine mese. Esatto, almeno ti rincuori un attimo, dico guarda, c'è qualcuno che ce la fa. Posso dire, oggi dopo un anno e mezzo sono uscito a prendere il caffè. Sono sempre stato qui dentro 11 ore, 12 ore, non mi faccio avanti, sono felice della mia vita, felice di quello che ho avuto, 27 anni di Rai, 23. Scusami, Emilio, scusami un attimo, perché oggi ti sei messo a un certo punto un cartello non posso parlare col cerotto davanti alla bocca? Che no, per carità, no, è che ero qui nella stanza. Siccome adesso devo dire sinceramente, guarda, io ho rilasciato una sola intervista, a parte quella che tutti i colleghi poi mi aspettavano fuori, però per quanto riguarda i giornali, soltanto al giornale, pensai cosa è successo, fatemela dire perché poi possiamo anche scherzare sulle zanzare. No, scusa, sulle zanzare. Però allora voglio dire questo, cioè io avevo detto a chi mi aveva chiamato, cioè, di corsa si iniziava quasi la partita, io ero qua però, dice ma c'è una novità, che cosa? Ti hanno licenziato, dico, come mi hanno licenziato? Ma di che dici? Sì, l'hanno detto, ma licenziato, dico porca miseria, ti aspetta adesso mi informo, però come faccio? Con Falonieri e Berlusconi sono alla partita, adesso mica li trovo, arrivederci e grazie. L'indomani, cioè credo oggi, Fede accusa con Faronieri di complotto. Allora io voglio dire una cosa. Vabbè, però qualcosa hai detto pure tu, non è che non hai detto qualcosa, qualcosa hai detto, è stato con Faronieri. Non vi chiedo soldi, sto qui a farmi pizzicare dalla zanzara e dovete lasciarmelo dire. Bene, questa cosa offensiva, io non l'ho mai detta, e come la storia, non vi direte la storia di Emilio Fede, l'imbecillone che arriva con un saccone di euro, di 2,5 milioni di euro, addirittura passa la dogana, sfida la dogana di Proceda, vai in un istituto non bancario. Hai mai detto, dici che non hai mai detto che c'è la mano di Confalonieri. Ma neanche morto, se mi piace. Emilio, però tu quando parli in realtà ogni tanto ti fai scappare le cose, è normale. Cioè, ma dici, scusa, allora scusami, allora voi dovete dire in pochi secondi, secondo voi io sono cretino? Sono scemo? No. Secondo voi ho l'Alzheimer? No. Uno a un certo punto come te, giustamente, perché dopo tanti anni ogni tanto si può permettere di dire quello che pensa. Secondo me hai detto quello che pensavi. Io dico che sono nei confronti di Confalonieri amico di lunga data, perché lui era quello con il quale facevamo le colazioni e da noi due ogni tanto ci parlavamo. Si ma come si dice, qual è il il proverbio dagli amici? Com'è, Jerry? Mi guardi? Anche con Crippa. Se lui l'altro giorno no, io sto benissimo, tranquillo con tutti. Se l'altro giorno mi manda un messaggio qua, dice io ti rispetto. Ma va bene, l'ufficio lo vuoi lo mantieni o no? Quell'ufficio che hai con i cigni fuori, l'ufficio lo mantieni o no? L'ufficio lì a Mediaset a Cologno, cioè lo mantengo nel senso che pago l'affitto? No, te ne vai, insomma, lascia anche l'ufficio. No. Per forza. Allora è una domanda legittima. Io sono da 23 anni qua e sono un vero giornalista. Allora, 23 anni durante i quali ho dato tutto qui dentro e l'informazione è partita con me. Va bene, l'ufficio. Si può pensare, no, allora se volete dire quello che dite voi, dite voi. Si può pensare che un'azienda, l'azienda Mediaset, perché ovviamente non ha mai licenziato nessuno nella sua storia, piglia, mi mette fuori anche e mi devo portare il bagaglio appresso, insomma, non resiste. Ottimo, quindi vuol dire che rimarrai lì nell'ufficio a Cologno. Rimango nel mio ufficio a Cologno. Meno male, benissimo. Ma scusa, ma questo è una mezza alla strada, ma cosa ho fatto, rapinato? Per me devi restare là, anzi devi avere un ufficio. Guarda, domani grande. Quando vieni in studio a Milano ti faccio fare un grande esperimento, una cosa sensazionale. Cioè, sensazionale. Sparisce. No, ti faccio fare una cosa sensazionale. Meta radio. Grazie, ciao, Emilio, a presto. Ciao. Traffico, torniamo tra un attimo, ultima parte della zanzara con Jerry Calà. Anche quando sento le canzoni, sento le canzoni dei Gatti, penso che noi eravamo un po' avanti allora con l'umorismo. Ecco, ma qua oggi non c'è più però quello che c'era prima negli anni Ottanta, cioè i ragazzi che ripetevano le stesse frasi. Sì, noi abbiamo un po' inventato i tormentoni. Beh, io sono stato maestro. Cioè, un tormentone qual è stato? Un tormentone, capito? Capito. Ah, così era. E poi c'era anche quello di Pova. Com'era? Io sono l'attore che ha inventato il più alto numero di stronzate degli anni Ottanta. Questo vorrei un applauso per questo. Beh, dicene due o tre. Allora, uno è capito. Capito. Prova. Prova cos'è? Prova. Era prova, che avevo visto una pubblicità che c'era avete mai provato la primavera della Scandinavia? E io dicevo prova. Una stronzata pazzesca, E ma poi come te ci pensavi la notte? Mi venivano così. Sì. E poi una volta ho detto anche, e tanto che aspettavo un'occasione così. Guarda che ci vuole del genio, ragazzi, sicuro. Ci vuole del genio, ragazzi. Poi anche sai come salutavo il mio pubblico? Come? Ciao. Questo è il massimo. È una cosa mai vista. La gente impazziva per una stronzata del genere. Però ancora la gente. Com'era? Vediamo se fosse la gola, com'era? Ciao. Cosa pazzesca. Poi, ma com'era la libidine? Libidine erano tre. C'era quella semplice che era libidine. Sì. Poi c'era doppia libidine, libidine coi fiocchi. Questo era, lo chiamavano bulldozer con Matt No, Spencer. Questo era bomber. Bomber. E poi però diciamo che l'unica che ritengo che non sia una stronzata, ma una filosofia di vita. Beh, adesso questo è un po' troppo. Che vi consiglio è quella sempre. E quella invece non sono bello, piaccio. Ha detto anche questo. Però poi perché dire, quella qua si può applicare a Parenzo, diciamo la verità. Sì. Sì, perché lui non è bello, ma come è un ragazzo con la simpatia. Beh, siete due brutti in realtà, siete due brutti, anche tu non sei proprio il massimo. No, insomma, non sono Richard Gere, no? Cioè, ma io sono così cesso. Però quando vai a cagare. Cioè, ma scusa un attimo, quando se tu fossi, va bene, non posso. Negli anni d'oro. Solo un decimo di quello. Esatto. Cerchiamo di negli anni d'oro gli davi giù alla grandina. Negli anni d'oro ci davo giù, io lo ammetto. Ma anche 3-4 sera. Ma come facevi così? Non è so, voglio dire, con tutto il rispetto, non sei una bellezza. Però quello, di Jerry Calà. Avevo un mio sistema, cioè sistema che le donne vanno fatte ridere, sì, capito? Meno quando ti spogli nudo, che se ridono quando ti spogli. Però scusa, questo è un po' come Berlusconi, cioè anche Berlusconi non è questa bellezza, lui c'ha anche un altro aspetto. Beh, lui però c'ha il grano, io non so. Ma come funziona? Cioè, sono benestante, ma insomma non arrivo a. Ma avevi fatto anche delle cose tipo tre donne, ad esempio, non lo so. No, vabbè, adesso devi entrare Non sono un porcone maniaco. No, a me bastava uno contro uno. Conquistarla una alla volta. Insomma. Ma quelle cose negli anni Ottanta non si facevano poi ancora, o sì, si facevano? No, si facevano. Però, pure negli anni 70, anzi forse gli anni 70 però, quando c'è stata la liberazione sessuale. Però vi aiutavate anche con le sostanze. No, assolutamente. Beh, come no? Io bevevo birre. In quel mondo lì qualcosa. No. Beh, in quel mondo altri hanno. Ma anche tu l'hai detto in qualche giornale, l'ho letto da qualche parte. No, ti sbagli con qualcun altro. No. Io ho bevuto, sì, continuo anche a bere qualche bicchiere di vino da buon. Sostanze niente? Da buon no, sostanze. Cocaine no. Varie, no. Canne. Canne che schifo proprio. No, niente. Zero. No, zero. Per carità. Allora, Partito Comunista, com'era la cosa? A 18 anni ho detto. Veloce, dobbiamo chiudere. Allora, a 18 anni. PC. Poi mi sono spostato, ho fatto PSI. Sì. Grazie. Craxi e poi Berlusconi. Poi Berlusconi adesso? E a Verona voto Tosi. Cioè, non cioè hai fatto dubbio. Tutto come Galearo prima, tutto, cioè, hai fatto l'arco vale, costituzionale. Ma l'artista è una mignotta, ragazzi. Beh, grazie a Gerry Calà, grazie Verona. A tutti, ciao Verona, a domani, sempre in diretta da Milano, 18.30. A maggio, operazione vacanze, al cinema! Ma che c'entra? Ma non conta nulla adesso! E vabbè, intanto un'anteprima. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.